acqua di sale baciata dal vento che viene dal mare, accanto alla riva pian piano ti lasci bruciare dal sole. Con tutte le creme massaggi la pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso e le spalle, ti lasci bruciare. Come un peperone, da quando tu prendi il sole leone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Ormai pure all'ombra continui a scottarti, nemmeno la luna riesce a calmarti, appena ti stringo tu urli, tu piangi, mio pallido amor. Avevi le labbra così vellutate e oggi le rosse così screpolate che sembra che io baci l'ortica di un campo ingiallito dal sole.